champagne. Allora parliamo di bollicine, lo facciamo ovviamente col nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao, devi sapere che la canzone Champagne è una delle mie preferite. Spero quindi... che ti piaccia anche questa versione singolare. Questa è divertente, ma ti dirò di più, che anni fa mi rubarono la macchina e io avevo dentro quel champagne, che era uno degli ultimi esempi che erano rimasti. E quindi quando aprì la macchina, molti miei amici lo sanno, disse: non mi dire che mi hanno rubato anche la cassetta champagne. Quindi per dire, però devo dire che per noi italiani purtroppo non c'è nessuna canzone che immagini lo spumante. No. Speriamo che prima o poi ci sia qualcuno che per l'amor patrio faccia inneggi allo spumante. Ma sai, questa sfida di bollicine tra champagne e bollicine italiane dura da una vita. Ora pare che per numero di bottiglie, però, dove dentro ci va un po' di tutto, non solo gli spumanti di primissima qualità, gli italiani hanno cominciato a battere per numero di bottiglie i francesi. Questo è un grande onore di merito. Credo che siano due vini diversi, io li chiamo vini perché secondo me rimangono vini. Sono due vini completamente diversi, uno ha 200 anni di storia, uno è molto più giovane come lo spumante italiano, però abbiamo delle aree molto vocate perché abbiamo il Franciacorta, abbiamo il Trentino, abbiamo qua e là anche nel resto dell'Italia, ma abbiamo anche l'Oltrepò che dà molto a queste aree vocate, perché molto del Pinot Nero, che è una delle basi dello champagne, e dello spumante, arriva proprio dalla zona pavese. Ecco, devo dire subito una cosa, che molti sono meravigliati quando si dice che di solito l'uvaggio classico per ottenere uno spumante, metodo classico, uno champagne, è fatto da due uve rosse. Dice, cosa succede? Come due uve rosse alla fine danno un vino bianco, sì, perché c'è un metodo di produzione molto particolare, molto soffice, che è la vinificazione in bianco, perché che i vini che danno questo di solito sono dei Pinot, cioè Pinot Nero, Pinot Meunier in Francia e Pinot Nero in Italia, più ci va un vino bianco che di solito è lo Chardonnay. Però oggi, sai, quando si parla di bollicine ci sono tanti altri vini che sono venuti alla ribalta, cioè ad esempio il Prosecco, il Prosecco Frisiano è bollicine ed è ottenuto con un metodo diverso naturalmente, che è quello, il metodo Charmat, o qualcuno che chiama metodo Martinotti italiano, che è un metodo in autoclave. Ecco, lì che siamo italianissimi su quel tipo di produzione, perché appunto è stato portato avanti da un italiano, da un enologo italiano. Ma arriva sempre verso Natale, ecco perché oggi parliamo di bolle e di bollicine. Arriva Natale perché di solito le bollicine sono i vini della festa e sono sempre stati così considerati i vini dei pranzi importanti verso la fine. Qui si commette l'errore. Perché? Perché un tempo, ma anche oggi, di solito si beve alla fine per brindare e si beve coi dolci, con il panettone e con tanti altri tipi di dolce. In realtà lo spumante metodo classico e lo champagne non sono vini dolci, sono vini secchi, quindi devono essere utilizzati a tutto pasto. E addirittura io arrivo a dire che l'ottimo, secondo me, per il bollito e per il brodo, quindi visto che si avvicina Natale, cappelletti, anolini, cappellacci, insomma tutto quello che finisce in brodo, che è una delle minestre della festa, perché in molte regioni italiane il pranzo tradizionale di Natale inizia con questo. E devo dire che l'abbinamento con le bollicine è ideale, che sia metodo classico e che sia champagne. E io credo che sia veramente il modo migliore, perché in fondo, tutto sommato, se uno ci pensa bene, sgrassa. Vero. E quindi quando uno mangia brodo, mangia dei piatti che sono abbastanza grassi e succulenti, le bollicine vanno molto molto bene. E invece in fondo, come abbiamo già detto una settimana fa col panettone, però ci vanno altre bollicine, ma anche per altri dolci, perché non tutti ovviamente brindano con il panettone, non tutti finiscono il pranzo col panettone, altri invece con altri dolci tradizionali, ci sono il pan dolce, ci sono in Italia tantissimi dolci tradizionali. In provincia di Verona che quello tradizionale è il pandoro, che ce ne dimentichiamo sempre, però è il succedaneo di panettone. Chi non vuole i canditi, chi non vuole la frutta candita, eccoti che arriva il pandoro. E io credo che quest'anno addirittura il pandoro avrà un ottimo ritorno, perché qua e là ci sono molti pasticceri che cominciano a produrre degli ottimi pandori, mentre per un tempo era stato un po', per così dire, messo da parte. Certo, certo. Meno male per tutti i fan del pandoro. Io sono democratica, mi piace sia il panettone che il pandoro. Voglio un po' e un po'. Ma tu vuoi un po' e un po'? Sì, vabbè, un po' normale, un po'. Insomma. Una volta uno, una volta l'anno. No, no, una volta uno, una volta l'altro, nel senso. Ecco, cioè, ecco, ecco. No, no, non è che nello stesso pasto sia pandoro che panettone, però tutte e due, una volta l'uno, una volta l'altro. C'è ad esempio un pan giallo anche, che è un ottimo. Poi un'altra cosa di cui si parla poco, ma magari ne possiamo parlare la prossima settimana, ad esempio il torrone. Ah, è vero, non abbiamo ancora parlato di torrone, Davide. Torrone, panforte, ad esempio il panforte senese è un altro dolce tipico che viene, diciamo, molto, molto utilizzato, molto mangiato proprio per Natale. Panforte è un dolce tipico di Siena con, tra l'altro, una lunga storia, quindi credo che valga la pena la prossima settimana anche di, magari parleremo di questo. Poi ti avevo promesso una chicca. Eh sì, sto aspettando la chicca, perché ogni settimana ci stai tirando fuori delle proposte da segnare, di cui prendere nota. Allora, questa volta vi porto in provincia di Treviso. Vi porto in provincia di Treviso in una trattoria. Sai che io ultimamente un po' ho la passione delle trattorie, perché vengono quasi sempre dimenticate in questo paese. E sempre si parla di stelle soprattutto, diciamo, stelle televisive. In realtà c'è una realtà italiana che è basata molto sulle trattorie, dove ancora si mangia qualcosa di veramente di genuino, magari non è curato, non ci sono gli allestimenti degli archistar, non ci sono piatti pregiatissimi, però la qualità è sempre ottima, perché di solito molti trattori, ma non dico tutti, per carità, ci sono anche tantissimi chef stellati che fanno ricerca, però vanno a ricercare dei prodotti importanti. E io delle trattorie amo una cosa che è un po' abbandonata, diciamo, nella ristorazione, che sono quelli che si chiamano animali da cortile. E allora c'è il coniglio, ci sono i fagiani che però vengono anche cacciati, ci sono le faraone, ci sono le anatre. Ecco, queste sono carni che io adoro, anche perché permettono all'oste di fare dei piatti anche abbastanza, diciamo, prelibati, abbastanza arricchiti. E allora ultimamente vado alla caccia di questi piatti, e devo dire che torno in provincia di Treviso in una trattoria di un nome molto complicato, Sernaglia della Battaglia. Ecco, tu dimmi se si può chiamare un paese con un nome di questo genere, però, però è un paese dove c'è una trattoria interessante che si chiama Alla Libera, anche questo c'è un nome singolare, non è aperta tutte le sere. Ecco, questo anche dà l'idea, perché il cuoco in certi periodi credo che i suoi aiuti non lo possono sostenere, c'è un fratello che lavora altrove, e allora tiene aperto un paio di giorni a settimana alla sera, che è sempre a mezzogiorno. Quindi informiamoci prima. Sì, quindi informiamoci prima, Alla Libera di Sernaglia della Battaglia, appunto, bisogna informarsi di prima. Allora, ti dico che ho mangiato delle cose molto intriganti, che magari fanno venire l'acquolina, anche se molti sono già usciti da tavola. Una zuppa di patate con un ragù di coniglio e di questi diciamo, animali da cortile messo sopra, questi ragù che sono prelibati, dove ad esempio in Toscana e da altre parti si fanno anche dei crostini. Quindi, diciamo, per iniziare un qualcosa di caldo in questo periodo va molto molto bene. E ecco, voglio fare questa annotazione, che iniziare con un qualcosa di caldo d'inverno con qualcosa di fresco d'estate è una buona regola, secondo me. Ad esempio, iniziare con la frutta d'estate è molto interessante, così puoi iniziare con un brodo d'inverno. Poi ho assaggiato anche, che ho, diciamo, rubato da un piatto di una persona, alcune persone che stavano mangiando con me, un raviolo con borsa pastore e bardana. Ecco, qualcuno dirà: ma cos'è la borsa pastore? La borsa pastore è un'erba molto particolare che viene chiamata in questa maniera perché ricorda le borse dei pastori. Quindi pensa a te dove si arriva, è bardana. Ecco, cioè un raviolo appunto con erbe selvatiche che sicuramente in un periodo di vegetariani e di vegani, secondo me, diventa molto molto interessante. Però passiamo ai secondi, ecco qua. come dicevo, la faraona. La faraona, ho mangiato anche l'aletta, ecco, l'aletta quella che tu ti metti con le mani, mangiata con le mani, che tu appunto la rosicchi vicino all'osso, che sono le cose più delicate. Anche qui fatta con un fondo di ragù. E poi ho mangiato un coniglio selvatico, con, veniva cotto in diverse cotture, quindi poi con l'aceto balsamico. E dulcis in fondo il petto di fagiano. Ecco, un petto di fagiano che bisogna stare attenti quando si mangiano questi animali, perché magari c'è ancora il pallino del cacciatore. Accidenti. Quindi bisogna stare attento, che potrebbe far male anche i denti. E poi si può fare una verticale di dolci. Ecco, chiudiamo con il dolce. Che cosa mangiamo di dolce? Si può mangiare la crostata agli agrumi, si può mangiare una crema pasticcera fatta al momento con le prugne, si può mangiare una torta di cioccolata senza farina. Ecco, qui sicuramente per chi è intollerante al glutine, c'è anche una torta di cioccolato senza farina, perché anche in trattoria sempre di più stanno attenti appunto alle intolleranze o alle allergie. Poi c'è una carta dei vini molto, diciamo, selezionata, e c'è un rapporto prezzo-qualità che secondo me vale una visita. Allora, c'è un ascoltatore che ci chiede il nome del paese: Sernaglia della Battaglia, provincia di Treviso. Treviso alla Libera. Grazie Davide, ci troviamo il prossimo sabato, quindi allora ci prepariamo torroni, panforte, tutte queste cose buonissime, fantastico. Va bene. Grazie Davide, al prossimo sabato. Buona domenica a tutti.